Buonasera e benvenuti alla mia presentazione del film dell'estate 2007 Campeggio Spiagge del Riso. Ogni riferimento a fatti o persone realmente esistiti è puramente casuale. Vi auguro buon divertimento.